suolo, la sostanza organica che c'è nel suolo, è il più grande serbatoio di CO2, di carbonio che c'è sul pianeta. C'è più carbonio stoccato nel suolo di quello che ne troviamo negli oceani. Se noi consumiamo suolo, se noi facciamo sì che la sostanza organica, l'humus, quello che comunemente chiamiamo humus, venga mineralizzato, questo succede quando si ossida con l'aria, quando il terreno non viene più usato per le sue funzioni, che sono quelle di far crescere le piante, far crescere gli animali, la vita che c'è all'interno, questa CO2 va in atmosfera, cioè il carbonio si trasforma in CO2 e va in atmosfera, e quindi il consumo di suolo di fatto contribuisce all'aumento della CO2 atmosferica, anche perché la cementificazione si porta dietro un problema, che è quello che per produrre cemento noi emettiamo moltissima CO2 in atmosfera. Il cemento, appunto, per sua natura viene dalle rocce calcaree, nel processo proprio di preparazione del cemento stesso viene buttato in atmosfera una quantità enorme di CO2, quindi diciamo, un altro degli effetti del consumo di suolo per cementificazione, chiamiamola così, è proprio quello di emettere in atmosfera per costruire, oltre a quello che emettiamo consumando il suolo. Ci sono ovviamente molti altri effetti dovuti anche al consumo di suolo, alcuni li vediamo anche negli ultimi anni. Un altro tema è quello idrico. Assolutamente sì, perché purtroppo l'acqua che arriva per terra e non ha il tempo di infiltrarsi nel terreno, ma trova delle superfici impermeabilizzate, scorre con grande velocità verso i corsi d'acqua, verso i punti di raccolta, diciamo, di quest'acqua, che sono tutta la rete di scolo delle acque, e arriva con una velocità enorme, che è di 8-10 volte superiore a quella che avrebbe se si infiltrasse nel suolo, anche perché quando si infiltra nel suolo, noi lo vediamo nei vasi di fiori che abbiamo sui nostri davanzali, l'acqua entra dentro. Quando tutto il vaso è pieno d'acqua, comincia a restare in superficie, in un campo può scorrere, però prima di cominciare a scorrere si infiltra appunto dentro al terreno. Se noi abbiamo dell'asfalto, del cemento, questo non accade, l'acqua viene raccolta dalle fogne, dalla rete di scolo, e arriva molto velocemente nei fiumi, e questa è anche la causa purtroppo delle tante alluvioni che abbiamo avute negli ultimi anni. Ha un effetto anche sulle falde acquifere? Ovviamente sì, perché non ha modo di entrare nel terreno, appunto di infiltrarsi, ne arriva poca e soprattutto ne arriva di qualità inferiore, perché il terreno, il suolo, chiamiamolo sempre così, ha questa grossissima capacità di filtrare e depurare l'acqua, quindi quella che va giù, se il terreno è sano e pulito, verrà filtrata e sarà acqua buona che andrà nelle falde. Ovviamente se passa attraverso l'asfalto, va nei corsi d'acqua e si infiltra lì, si porta dietro anche tutta la sporcizia che troviamo appunto durante il suo cammino, quella delle strade, quella dei tetti delle case. E infine c'è un altro tema che a me ha molto colpito, che è quello agroalimentare. Voi avete fatto uno studio e in un quinquennio, solo in Emilia Romagna si è tolto cibo per tante persone. Ci puoi ricordare quei dati? Sì, certo. Guarda, noi abbiamo fatto i conti utilizzando le carte dell'uso del suolo della regione Emilia Romagna, che sono scaricabili fra l'altro dal sito della regione Emilia Romagna, quindi tutti possono vederle. Abbiamo calcolato quanta superficie agricola si è persa nella nostra regione, nella pianura. Noi abbiamo fatto i conti solo in pianura, ma anche perché sono poi quelli dove l'impatto è stato maggiore. Quanto superficie agricola si è persa, e sono venuti fuori dei numeri impressionanti, perché solo dal 2003 al 2008, che eravamo ancora in pieno boom economico e si costruiva tanto in quel periodo, però si è persa una superficie pari alla metà del comune di Bologna, sono circa 150-160 chilometri quadri, che se pensiamo al comune di Bologna è circa 300 chilometri quadri, quindi una superficie impressionante se ci pensiamo in soli 5 anni. Ma la cosa più impressionante è che sono stati fatti un po' di conti facendo una simulazione, cioè considerando che tutta questa terra poteva essere coltivata a grano, coltivando il fabbisogno alimentare di ogni individuo, che è circa di 2400 calorie, quelli che abbiamo usato noi per il conto, e considerando l'apporto calorico del grano, si è visto che si è persa la capacità di alimentare più di 400.000 persone all'anno nella sola pianura emiliano-romagnola, che corrisponde circa al 13% della popolazione della pianura, quindi un importante effetto fetta del nostro patrimonio alimentare è stato perso. Questo ovviamente è una simulazione, non abbiamo perso la capacità di alimentare queste persone tout court, però diciamo che è un conto che ci fa rendere conto di che cosa accade quando noi perdiamo appunto suolo, quando lo consumiamo, appunto, perché va ricordato che il suolo è una risorsa non rinnovabile, non si riesce a recuperare il suolo perso se non in centinaia o migliaia di anni, anche una volta bonificato dal cemento in eccesso.